sulla scena. Bravo, bravo a grande Nets. Come sempre nel culo a tutti quanti tranne a me che mi fa male. Specialmente io fortunato che quando cago esce caviale. Speciale se mi inculi non vale. Con il fumo passivo tu rischi di rischiare. Non mi faccio insultare da uno vestito da carnevale. Nemmeno da uno che scrive il suo nome come un cane sul collare. Ci vuol coraggio, vuol pare delle basi che facciamo. È vero amico tu spacchi ma noi invece aggiustiamo. Donne è arrivato la rotino. Levigatore di lingue noi le lingue le vighiamo. Con le punte le conziamo. Tu spari in testa la gente nel mento. Mentre noi la gente non la spariamo perché alla follia l'amiamo. Non serve dire che punti una pistola ad una testa. Non serve dire che hai scopi con tutti ad una festa. Non serve sputtanare i tuoi lo scaffari, non conviene. Non serve inventare un personaggio che ti teme. Serve tanto un musicista con il cuore, non col cunno. Fai come lui che a Natale va a fare le pulizie d'autunno. Ti ho preso come esempio per chiudere sta rima peace. Se la senti su MySpace non provare a farmi il diss. Per il buono ed il cattivo sono qui sedute scrive vivo. Il momento in cui qualcuno forse attento mi dirà di stare attento a far mio. Mi dirà chi sono io in mezzo a questo ben di Dio. Per il buono ed il cattivo sono qui seduto e scrive vivo. Il momento in cui qualcuno forse stento mi dirà di stare attento a far mio. Mi dirà chi sono io in mezzo a questo ben di Dio. Io non sono l'emica, io non sono ok. Io non sono uno psichiatra, se tu vuoi tornare indietro allora fai replay. Ma non ci giurerei, scrivo da Roma ed ora il mio prefisso è 06. E tu come la vedi? Che prospettiva hai con una cartina? Magari made in Cina, qui c'è gente troppo fina. Alla fine pure meschina, per me che sono nitroglicerina. Se passo da Tiburtina, io ne sono uscito sano e salvo. E alla fine mi daranno del fallito, anche se ne ho le palle piene. Preferisco nelle vene, farmi di cherosene, che comprare bitcoin a Roma sperando che qualcuno viene. Io non sono sulle scene, ma dillo in faccia e caccia la tua bocca dal mio pene. Io non sono tra le sbarre, non sono con le catene. Io non ti conto palle, non volto alle spalle alle cene. Sono sopra lamiere di amianto. Scendo dalla scala del mondo e non mi schianto. Sarà perché io infrango le leggi del tuo banco. Io sono a posto più morto di Grim Fandango. Io non mi spengo, vedo e rido e dopo ti piego. Non distingo il verbo amare dal vengo e spendo questa fottuta vita vivendo. All'ultima fermata non scende e ricorda adesso che il resto prima o poi te lo rendo. Per il buono ed il cattivo sono qui seduto e scrive vivo. Il momento in cui qualcuno forse attento mi dirà di stare attento a far mio. Mi dirà chi sono io in mezzo a questo ben di Dio. Per il buono ed il cattivo sono qui seduto e scrive vivo. Il momento in cui qualcuno forse attento mi dirà di stare attento a far mio. Mi dirà chi sono io in mezzo a questo ben di Dio. Oh. Mentre ne giro a ruota, qua gira la ruota. Bene bene, male male, eterna lotta. Questa musica è droga, te ne do un'altra botta. Gira sta giostra fra, ma è la realtà che mostra. E sì lo so, un po' gira la testa. Ma non è che sei ubriaco, no, non è una festa. Io non è che sono un mago, no, la verità è questa. E non è che ti voglio qua, ma io devo dirti resta. Non ho parole a descrivere i miei pensieri. Colori vari, intervallati da spazi bianchi e neri. Ed è una continua guerra tra due emisferi. Per stare in pace le mie bevande, gli amici veri. E forse tu dirai che noi non siamo seri. Forse non mi ricordo che cosa è successo ieri. Ma tu invidioso, senti e scleri. Dimmi se ci stai, oh, dimmi se c'eri. Ed io non penso positivo, ma io cristiano ringrazio Dio che sono vivo. Anche se è Satana che muove la mia mano quando scrivo. Chi è il buono, chi è il cattivo. Senti questo suono, non è importante, tanto tutto è relativo. Per il buono ed il cattivo sono qui seduto e scrive vivo. Il momento in cui qualcuno forse attento mi dirà di stare attento a far mio. Mi dirà chi sono io in mezzo a questo ben di Dio. Per il buono ed il cattivo sono qui seduto e scrive vivo. Il momento in cui qualcuno forse attento mi dirà di stare attento a far mio. Mi dirà chi sono io in mezzo a questo ben di Dio. FG Records, nuova produzione 2010, fumo passivo. Cubano Lucy oh! South Jojo e Pat.